fagiolone cabriolet, sfatto ma piaceva tanto a lei. Arrivo e col clacson disse sto aspettando te, lei scese profumata più che mai. Oh, fecero due conti in tasca e videro che non ci si ballava neanche un po'. E gli disse questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Di luce vado al proiettore per un sogno da 2000 lire, porti addosso qualche segno, proverò a tirarteli via, posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. Marlon Brando è sempre lui, oh voi, oh voi, Marlon Brando è sempre lui, oh voi, oh voi. Non porti avanti con gli occhi ancora tanto film, Terry, ma lui infine vince lui. Lui le dice vedi in fondo siamo sempre qui, e non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiolone, carrellata per il lieto fi, le porti addosso qualche segno, proverò a tirarteli via, posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, che per la sete d'eroi. E Marlon Brando è sempre lui, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,